Noi siamo dell'avviso che la proposta presentata dall'assessore Barigazzi sulla riorganizzazione della sanità a livello metropolitano non sia all'altezza delle esigenze che ci sono, nel senso che in quella proposta l'unica vera novità è l'istituzione dell'Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico a Sant'Orsola, unificando le eccellenze del Sant'Orsola con quelle dell'Ospedale Maggiore. Noi non siamo contrari a questa proposta, ma pensiamo che in termini di priorità bisogna impostare il ragionamento in modo diverso. La priorità oggi a Bologna è riuscire a dare una risposta ai bisogni delle persone anziane, che sono sempre in crescita, sempre di più, delle persone che hanno malattie croniche e delle persone sole. Spesso anziani, malattie croniche e sole sono anche la stessa cosa, ma non solo, a volte sono anche persone adulte che hanno problemi di cronicità che si uniscono anche a quelli della solitudine. La risposta a queste persone si deve impostare sviluppando e investendo sulle case della salute, su una rete a livello territoriale che risponda alle loro esigenze. Questo tra l'altro è funzionale anche ad evitare ricoveri impropri, è funzionale ad evitare accessi impropri al pronto soccorso. E invece nella proposta che ha presentato l'assessore Barigazzi si parte dalla testa anziché dall'inizio delle cose e si propone un modello e una modalità di riorganizzazione della sanità che si fonda prima di tutto su un investimento in termini di struttura ospedaliera tradizionale, seppure a livelli di eccellenza che peraltro sono riconosciuti. Questa è la prima osservazione che noi facciamo e che è un'osservazione che tiene conto dell'esigenza di cambiare il verso al modello organizzativo della sanità. Bisogna che sia la casa della salute, cioè il territorio, che governano il processo di sviluppo e di funzionamento della sanità, quindi non una logica piramidale ma una logica di rete, nella quale però il punto centrale è il territorio e le risposte di vicinanza ai bisogni dei cittadini a livello domiciliare e territoriale. L'assessore si accorge tra l'altro di queste contraddizioni nel momento in cui nei giorni scorsi abbiamo avuto delle forti criticità nella mancanza di posti letto, perché c'è stato un accesso più elevato del solito proprio di persone anziane, di persone con problemi cronici a causa delle influenze, delle malattie tipiche di questa stagione, e dice bisogna entro la fine dell'anno faremo gli ospedali di comunità. Questo però è una missione di una contraddizione, perché la criticità nella quale ci troviamo oggi è legata al fatto che negli anni passati ci sono tagliati i posti letto nelle geriatrie, nelle medicine, nelle lungodegenze, cioè nei reparti dove venivano accolti soprattutto anziani con problemi di malattie croniche, eccetera. Nello stesso tempo si dice abbiamo fatto questo senza creare alternativa, che sono gli ospedali di comunità. In più l'assessore dice bene, faremo gli ospedali di comunità e li faremo gestire i privati. Noi anche su questo non siamo d'accordo. Noi siamo d'accordo sul fatto che ci devono essere gli ospedali di comunità, siamo d'accordo che bisogna rafforzare i territori, ma pensiamo di investire sulla sanità pubblica, non trasferire ai privati la gestione di questi posti letto, di queste strutture. Questo peraltro fa il paio di una scelta che noi giudichiamo molto grave, che è stata fatta dalla Regione alla fine dell'anno scorso, che è quella di istituire accanto all'Istituto di Ricovero e Cura del Sant'Orso anche quella di una casa di cura privata molto importante che c'è a Cotignola in provincia di Ravenna, che è la prima struttura privata in Emilia Romagna per la quale la Regione chiede riconoscimento come istituto di ricovero e cura e quindi l'accesso ai finanziamenti pubblici statali. Noi pensiamo che questa sia una scelta sbagliata, perché noi pensiamo che bisogna investire sul pubblico e rafforzare il pubblico. E tra l'altro a proposito di case salute, voi parlavate anche in particolare della casa salute del quartiere Navile, del lavoro che si sta facendo sì, in questo quartiere. Sì, noi abbiamo fatto un lavoro nel quartiere che ha portato a un risultato importante, che a livello del Consiglio di quartiere è stata accettata la proposta che noi avevamo avanzato di costituire un gruppo di lavoro che vigila e supporta lo sviluppo dell'attività della Casa della Salute. Il problema è che la Casa della Salute di Navile, come le altre poche che sono state attivate nella nostra città, in realtà è un restyling dei vecchi poliambulatori di quartiere, cioè non si è colto l'occasione dell'istituzione delle case della salute, al di là di costruire un edificio nuovo, peraltro con alcuni problemi, ma comunque un bel edificio nuovo per ripensare il modello organizzativo. Questo è il problema. Non si è ribaltata la logica, ma si è continuato nella vecchia logica ridipingendo la facciata. Quindi questo è, secondo noi, un errore che va corretto e che l'occasione di ripensare l'assetto organizzativo della sanità a livello metropolitano deve essere appunto colta in questa direzione.